se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Noi non abbiamo timore, crediamo che il risultato della consultazione tra gli iscritti sia uno straordinario punto di partenza per Matteo Renzi, siamo certi che questo risultato verrà confermato nelle primarie aperte e siamo orgogliosi che milioni di persone verranno insieme a noi a dire che vogliono contare nella scelta della leadership per il Partito Democratico. Siamo antitetici a Renzi e al renzismo. Noi siamo una cosa, Renzi e renzismo sono un'altra cosa. Parisi non ha un voto. Parisi cos'ha? Forse si è montato un po' la testa, adesso vuol fare il suo partito. Auguri, lo faccia. Un ragazzo che non conoscevo prima, che ha detto: io qualche anno fa me ne sono andato a Londra. Sono tornato quando è arrivato il governo Renzi perché ho capito che qui finalmente potevano riaprirsi delle opportunità, possibilità di avere un paese in cui va avanti il merito. Truffatori politici. L'hai detto tu, Presidente De Luca, io non dico nulla. Buongiorno comunque, sono le 6:32 minuti, il conduttore della conduzione 4.0 ha parlato. Amico mio, ma chi vuoi prendere in giro? Nessuno io, infatti stiamo lavorando per la conduzione prossima di tua, caro Vincenzino, qui a 24 mattino. 13.000 euro netti al mese. Va benissimo, anche lo stipendio si è dato. E noi qua passiamo al direttore del personale direttamente la richiesta già firmata. Di meno no? No, va bene. Sterminatore di congiuntivi. Questo mi dispiace, obiettivamente dispiace per me, per gli ascoltatori, anche per la lingua italiana, però vedremo se su questo possiamo arrivare a un compromesso, signori. Giovano, sono parole, chiacchiere. Però 13.000 euro al mese, chiacchiere, parole, vuoi mettere? Signori, a Cazzago... Lorenzo Nespoli, Cazzago, Venezia, ci dice l'ascoltatore Fabio, 12 gradi. A Perugia ci sono 13 gradi. Grazie Luca, la scelta musicale sempre Lorenzo Nespoli. Plato 7 gradi o Platì? Cioè adesso, perché se sbagliate anche... vabbè, comunque 7 gradi, anzi 7 grandi. Cazzago e Brescia? No, Cazzago San Martino è un'altra cosa. Cazzago, Venezia. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Paratico 13 gradi, Somendenna 7 gradi, a Santona di Piave ci sono 14 gradi. Saluto Zeno in questo momento. Mentre a Maciano 9 gradi. a Perarolo 14 gradi, sull'Autolaghi 12 gradi, a Vicenza 15 gradi e sonno, questo da Luca, mentre a San Daniele del Friuli 13 gradi e piove. Signori, allora alle 6:34 minuti, voglio salutare intanto una rediviva, Chiara Geloni. Buongiorno Chiaretta. Buongiorno. No, perché era da un po' che non ti chiamavamo, mica perché Ma io ero qui in salute. Ma sì, so che stai benissimo, sono contenta. Siamo contentissimi qua. E tu come stai? Tutto benissimo, benissimo, vai. Tutto a posto. Poi assista a questo spettacolo degli accuse di brogli anche nelle primarie del PD, anche tu assisti con spettacolo, tanto tu ormai ne sei fuori, sei una scissionista. Sei una scissionista, stai senza pensieri. Come gli scissionisti, stai senza pensieri. Esatto. Vabbè. Tanto figurati, tutto in discesa, no? Allora, cara Chiara, ti presento il nostro amico, grandissimo, onorevole Maurizio Bianconi, Direzione Italia. Maurizio, ciao, come stai? Bene, grazie. Buongiorno. La conosco io, la Chiara, figliola di un amico mio. A figliola di un amico mio, sai? Non sì, so sì. Se suona come una minaccia. Toscano. Suo babbo era assessore al bilancio quando io ero consigliere regionale. Quante gliene dette all'assessore al bilancio? Quante gliene dette all'assessore al bilancio mentre tanti, eri così? Tanti, perché veniva dalla Democrazia Cristiana e secondo me aveva voltato giubba. Era andato con il PD, con il PDS si chiamava allora. Con l'Ulivo, non mi ricordo, perché dicono intanto cambia. Sono sempre i soliti, ma sì. Poi cambio il nome. E c'era uno, un consigliere regionale, un Bartolossi, che poi è diventato anche un deputato europeo, che era con lui nella Democrazia Cristiana. Fantastico. E quando gli faceva le relazioni al bilancio dell'opposizione, gli leggeva i pezzi delle relazioni al bilancio che Geloni faceva quando era nella Democrazia Cristiana. Perché succedeva un casino che non finiva più. No? Certo. E Bianconi era primo lì a tirare i suoi vaffa. Io anatemi di qua e di là. Anatemi di qua e di là, sì, sì. No, sì, sì, sì. Vuoi fare chiedere una scusa pubblica per sanare tutti gli anatemi lanciati al padre? Cioè, babbo è una persona simpatica, buona, con cui ho avuto un rapporto molto molto corto. E quindi il Bianconi è così da retino, quando gli vuol bene una persona ogni tanto gli scappa l'epiteto e tira qualche però che belle quelle espressioni toscane, ha voltato giubba. Ha voltato giubba. È cambiato casacco. No, ma questo nell'Ulivo è la storia di tanti italiani, non è voltare giubba, È che sono lì, poi sono diventati alleati. È che lì sono lì, sono fermi, si cappottano, si autocappottano, fanno un'inversione di marcia. Ma allora anche tanti democratici cristiani di destra poi si sono ritrovati con la Lega, con AN, sai, cambiate un po' di cose. Comunque vediamo cristiani, vero? Il nostro buon Maurizio Bianconi, che è reduce, possiamo dirlo, da un'operazione, almeno ho visto delle foto, insomma, che ti è successo? Ti hanno mai rimesso una spalla? Niente, sono i mali di gioventù, ho inserito una protesi retroversa alla spalla, non avevo più l'omero, avevo il braccio staccato dalla spalla. Mannaggia. Una roba da bestie. Quindi adesso hanno inventato questa cosa. Buon parlamentare riccone, c'hai uno che ti regge il telefono in questo momento. Gioco con la sinistra. Sì, sì. Va bene. Dai, apriamo il Parlamento allora alle 6:38 minuti. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, capito, forza, Chiara? Ti lasciamo nella sigla Renzi. Perché tanto torna. Perché ti vuole bene, tanto torna. Tra poco al potere, al 68%. Ha detto chi perde ammette la sconfitta. Quello si sa. Ma non ha ragione su questo. Lui quando il 4 dicembre ha perso, cioè non è che ha detto si è presentato, ha detto è stata una sconfitta totale, un disastro. Sì, infatti aveva detto che avrebbe lasciato la politica. Questo è vero, avrebbe anche detto anche dettagli. Dice di verità che gli fa comodo a lui, che perde e che se ne va. Invece ritorna. C'era un altro toscano che lo chiamavano Arieccolo. Arieccolo, se non sbaglio. Fanfani. Era proprio Arieccolo. Me ne vado e poi tornare. Però anche questo è vero, l'altra affermazione mitica di Rotondi nella politica, che è quello che dice il politico vale per il momento in cui lo dice, dopo 10 minuti non vale più. Però qualcuno è più affidabile. Infatti è Rotondi che lo dice, non è che... Vabbè, insomma, tu Chiara come la vivi questo momento, tu scissionista, questo momento? Ecco, per esempio... Che bella questa parola, scissionista, proprio. No, ti faccio una domanda concreta. Tu andrai a votare alle primarie del PD? No, andrò a votare alle primarie del PD perché alle primarie del PD c'è scritto nello statuto del PD che chi vota o è iscritto al PD o comunque si dichiara elettore del PD. Io in questo momento non... pur avendo peraltro la tessera del PD che avevo rinnovato prima della sessione, però avendo deciso di non votare PD e di prendere un'altra strada, non posso andare a dichiarare il falso alle primarie. Se ci andassi non dovrebbero neanche farmi votare. Ma adesso dichiarare il falso, ma quanti andranno che magari sono degli infiltrati, gente che vota Forza Italia, gente che vota Direzione Italia. E fa male chi li fa votare. Non metto in dubbio quello che dici, ma non va bene. Quindi. Non va bene. Vabbè, non andrà a votare. Anche Enrico Rossi ha detto roba loro, non andrò a votare. Bianconi non andrà a votare sicuro. No, guarda però che Renzi le sue primarie più importanti qui a Firenze le ha vinte perché Forza Italia determinò di andare a votare Renzi. Vedi. Nei 3-4 mila di Forza Italia, di 2-3 mila di Forza Italia a Firenze andavano a votare Renzi. Perché Renzi gli diceva: voi volete mandare via i comunisti di qui e io ce la faccio a mandare via i comunisti. Invece voi non siete buoni a nulla. Allora fu dato l'ordine a Forza Italia di votare. È storia questa, la Geloni lo sa bene. Ho capito, ma comunque non andrete a votare, no, da Bianconi ovviamente era abbastanza ovvio, ma insomma è chiaro, Geloni non andrà a votare. Però non c'è una cosa più bella di questa discussione sui brogli, dai, ma della vita qualcosa di più bello? No, ma sì, nella vita tante cose, ma è sintomatico, nella politica. No, che diciamo non si riesca neanche a capire esattamente quali sono le percentuali, anche se il risultato è piuttosto chiaro, meno male, perché pensa se fossero distacchi di poco, la questura cosa dice di questi 68 Renzi, ma per la questura quant'è? Per la questura, dai, ragazzi, ma su, ma questo si dimostra in che stato è quel partito, no? Perché insomma non c'è neanche un'autorità indipendente che possa garantire tutti e certificare un risultato. Problema. Vabbè, ho capito. Però, caro Bianconi, visto che è amico tuo, aspettati il ritorno di Matteo Renzi. Il problema non sarà tanto conquistare il partito, cosa che credo gli riuscirà. Il problema, l'abbiamo detto mille volte, è che succederà con questa legge elettorale. Ecco, per esempio, ieri c'era Giannini con noi, Massimo Giannini, e lui ha detto che crede tantissimo a questa cosa del patto del Nazareno bis, anzi la vede come l'unica possibilità per fermare il 5 Stelle. È una posizione, non è scandalosa, è una posizione legittima che noi avversiamo da anni. Il patto del Nazareno bis non è che lo devono fare, non è, c'è sempre stato. Ah, il patto c'è sempre stato. È come quei due che se la intendono. Prima lo fanno in segreto, quando possono dirlo lo dicono, Ma in che cosa c'è oggi? C'è una convergenza di interesse obiettiva. Oggi, adesso, al 4 aprile, in che cosa consiste il patto del Nazareno? Anche l'hanno salvati al Senato, ma li leggete i giornali o no? Se non c'era Forza Italia, battevano una dentata al Senato e gliel'hanno salvati loro. È un soccorso permanente. Patto evidente. D'altro canto, ma con che cosa? Con Minzolini? Gli pagassero il giochino, perché la cosa più buffa è tutta questa storia. Ma su cosa le ha salvate? Su Minzolini, dici? Non solo su Minzolini, che è la cosa, direi. Io, guarda, qui saprebbe un varco di ragionamento che non voglio fare perché sennò dopo si incarta. Però lì è ovvio che c'era un patto, non c'è, ma quello non è tanto quello. C'era la legge di sulla pubblica, quella che hanno passato, quella sulla giustizia, gli anni passati, che loro sono andati, se non ce la facevo mica. Okay. Quindi, c'è, quindi per Chiara, vedi, per Maurizio c'è il patto del Nazareno, il patto del Nazareno c'è. C'è. No, è un piatto, è anche un piatto che ci si spartisce. Che notizia è, scusa, voglio dire. Adesso che notizia è? Le leggi sono... No, ma dico, quante volte in questa legislatura al Senato le leggi sono passate perché Forza Italia è uscita dall'aula o ha garantito il numero legale? Sono cose che... Sì, ma un'altra cosa, un'altra cosa è presentare... Ho capito, ma un'altra cosa... Ancora di più la storia della prossima, peraltro. Perché... Ma appunto, ma un'altra cosa è presentarsi agli elettori e dite, voi state votando per un governo Berlusconi-Renzi, cioè capite che è una cosa un po' diversa. L'elettorale consente di non dirlo, ma... Però un partito dovrebbe, dico perché adesso sembra che si andrà a votare col proporzionale, anche se vedo che Renzi finge di insistere col Mattarellum che non ha i numeri, ma uno può anche non dirlo, ma dovrebbe dire un partito, soprattutto che fa il suo congresso come sta facendo il PD in questi giorni, dovrebbe dire con quale tipo di alleanza e di politica ambisce a governare. Il PD di Renzi invece non dice niente, prende impegni con gli elettori di nessun tipo, quindi dopo il risultato elettorale potrà fare tutto, perché Renzi avrà il 70%, sarà il capo del partito e potrà gestire il risultato elettorale come vorrà. Allora, intanto ci sono dei messaggi. Bianconi e Chiara, persone che amo, peccato che non votino Renzi. Quindi questo è un elettore di Renzi deluso che vorrebbe portarvi dalla vostra parte. Vedi, posso dirvi due cose. Sì. La prima cosa, non è che si inventa niente. Renzi sta facendo esattamente la politica che faceva la Democrazia Cristiana prima dell'89. Vabbè, che sia democristiano. Prendeva i voti di centrodestra e poi arrivò al compromesso storico. È una visione che allora, quando ero ragazzo, mi scandalizzava. Oggi non mi scandalizza più, perché è una strategia politica. Ma non c'è niente di male nel dire che questa è una strategia politica. Ecco perché vi vogliono il proporzionale. Perché vi vogliono un'altra volta il patto di ferro che ha tenuto su l'Italia per 140 anni a certe condizioni, fra quella che era la sinistra e quello che era il centro. Fine della fiera. Il grave è che la Meloni e Salvini non capiscano questa faccenda e continuano a vagheggiare alleanze con Berlusconi, e che la sinistra della Meloni continua a sperare che Renzi si possa ravvedere. Cioè, non c'è niente. No, secondo me questa speranza l'hanno abbandonata. È un pochino speranza no. speranza non Roberto Speranza. Ma ragazzi, parli di lotti di gara e ti ritrovi il ministro, parli di speranza in politica e ti ritrovi il capogruppo, non si capisce niente. Intanto ci chiedono un selfie dalla impareggiabile Chiara Geloni, ce lo chiede Filippo da Pescara. Vedi tu, Chiara, andiamo al traffico, vedi tu nel frattempo. Vedi tu il traffico. Mamma mia, non ce la faccio più, e datemi questo benedetto traffico. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Ma se Fazio vuole andarsene dalla Rai, e chi se ne frega, l'importante è che si porti anche lo Sgorbio che lavora con lui. Politici ladri, siamo in mezzo ai ladri. Ciao. Signor Milano, oggi buongiorno non te lo dico perché sto incazzato come un demonio. Ma è possibile che tu ogni giorno che passa stringi sempre di più la segreteria? Stringi, alla fine trovo con cazzo in mano, eh? Ciao. Catechismo della Chiesa Cattolica, attualmente in vigore, riprende le parole di San Tommaso d'Aquino e al passaggio 22:64 me lo sono scritto: chi difende la propria vita non è colpevole di omicidio. Per giustificare la legittima difesa, comunque chi spara, Salvini sì, non cita a memoria, ero sicuro che se lo fosse appuntato, cita San Tommaso d'Aquino. Caro Bianconi, ma tu spareresti a uno? Cioè, come stiamo a fucili? Ti racconterò un episodio vero. Sì. c'avevo un cliente che sosteneva con te sta cosa che, e quindi dormiva con la pistola nel tavolino. Ah, giusto, perché l'avvocato Bianconi parla, esatto, adesso. Allora, entrano in casa poi e fuggi dietro a questi ladri per spararli. Quali però, sentendo che lui scalpiccia per le scale, se ne vanno. E lui però ormai è preso dalla foglia e cerca di sparargli. E punta e spara. E aveva preso il cellulare invece che la pistola. E quindi... Cioè, per sparare, ma è verità, non è una... Aveva preso il cellulare. Sì, era furia invece che la pistola. Sì, sì. Cioè, per sparare bisogna saper fare. Non è cioè, soprattutto se ti svegli rincoglionito alle tre di notte. Esatto, bisogna saper fare, bisogna avere la dimestichezza. Ok, certo, quindi, ma certo. Quindi, se succede, è comprensibile che succeda e non c'è neanche eccesso colposo, perché quando uno entra in casa non sai mai chi entra, quindi... Si può capire che uno che sappia sparare può sparare. Il grave è che lo Stato ci mette in queste condizioni. Il grave è che lo Stato, nel mentre ti priva di una difesa privata che comunque non sei in grado di fare, perché questo è non fa nulla per la sicurezza pubblica. Sì, la questione... Dicevo stamani mattina, prima di parlare con voi, che dei rapinatori, uno su due fa meno di un anno di galera. Questo una è volta vero. Che è stato condannato. Quando fa un anno? Quando fa un anno? Esatto, c'è scritto sul giornale, su uno la segnata. E quando? Sì, sì, voi. Quando fa un anno? Però... E allora, siccome rubare costa veramente poco, ammazzare costa meno, rapinare costa meno, abbiamo una pletora di gente che facciamo entrare, al quale non siamo in grado di dare il lavoro, che il primo giorno mangia con quello che gli dai, il secondo giorno mangia con quello che gli fai la cavità, il terzo giorno c'è un calcio e viene rubato il calcio. C'è anche una situazione sociale che però non giustifica le rapine, per carità. Esatto, però ma non so, dico qual è la situazione. No. Il ridurre tutto, puoi sparare o non puoi sparare, è fare cavare il problema allo Stato, molta buon mercato. Vabbè, tu Chiara, problema. Tu ti sei mai posto al problema, spareresti, ti armeresti? Sì, perché con il cellulare. Sì, no, con il cellulare. Non ho altre metti armi. un'app che fa rumore. Esatto, un'app che spaventa i ladri. No, io penso che è ovvio che la persona in casa propria deve poter stare al sicuro e è chiaro anche che può anche succedere che aggredito uno si difenda, se può, la legittima difesa esiste, non è che sia una cosa che va introdotta forse al Senato la settimana prossima, è una cosa che esiste già. Ma che poi prevista, c'è, sì, no? Ma va un attimo rivista, va data un attimo di tutela va bene in più. Tutto, secondo va me, bene tutto. Secondo me, se uno ti entra in casa che sia armato, no, comunque con fare aggressivo per rubare, se uno si difende, non. Cioè, no, l'ho appena detto. Non sto condannando chi si difende, insomma, questo sicuramente no. Tutto questo, insomma, adesso io credo anche in uno stato di diritto che non è questo, dove ognuno si fa giustizia no, da però solo. Però io . Ho un minuto e voi sì. Avete le palette da 0 a 10 sempre. Oh. Ce le avete da 0 a 10? Caro Bianconi, caro alleato politico Parisi, ti faccio sentire Parisi. Gli amici di Radio Rock, fatti beccare anche tu da quelli di Radio Rock. L'hanno fatto cantare. È una roba indescrivibile, senti. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. Urca. La libertà. Ma quando diventa già. No, ho fatto un casino. Non è uno spazio libero. Mamma mia. Libertà. È partecipazione. Siamo già in grado di dare un voto, secondo me. Come cantante devo dare sì, un voto? Sì, sì, sì. Sei, Maurizio, sei. 5 per il coraggio. 4? 4 no, 5 per il coraggio, va bene. Non è uno spazio libero. Urca, vabbè. Dai, libertà, vi lascio, intanto vi ringrazio Maurizio Bianconi, Direzione Italia e Chiara Geloni. Perché ha un'introduzione che io non sono in grado di cantare, molto bella perché parla dell'individuo e della sua libertà individuale e invece della libertà che è partecipazione. La libertà non è la libertà individuale, ma è la libertà nel popolo, nella società. È una canzone bellissima, è il nostro inno praticamente. Ok, l'inno di Energie per l'Italia, grazie. A te. Il segnale orario vi è offerto da... Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3. trentodoc.com. OneExpress.it. Il palettone.